Festa. Viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Buongiorno a tutti e bentrovati ad una nuova puntata di Radio Next. Oggi abbiamo la fortuna di avere qui con noi un imprenditore che ha costruito una meravigliosa realtà. Realtà imprenditoriale, realtà che è conosciuta e riconosciuta nel mondo, con il quale faremo un viaggio nel mondo dell'imprenditoria che cambia e dell'imprenditoria che acquisisce nuove modalità operative, nuove modalità di lavoro. Prima però ascoltiamo velocemente la scheda. Foscarini, una realtà che dà forma ai propri sogni. È questo il punto di partenza e al contempo di arrivo di questa azienda italiana, riconosciuta nel mondo come metro di paragone per il design innovativo e tecnologico delle sue lampade. Con oltre 35 anni di storia, collaborazioni consolidate con designer del calibro di Mark Sadler e creazioni di lampade iconiche come la Kabosch, è stata in grado di affermarsi a livello internazionale grazie alle capacità manageriali e imprenditoriali di Carlo Urbinati alla guida dell'azienda. Ma di fronte ai cambiamenti in atto nella società e nell'economia innescati dalla trasformazione digitale, è necessario ripensare a fondo il proprio ruolo e di conseguenza tracciare una nuova direzione che metta al centro del pensiero la persona. È l'umanesimo digitale, così definito e interpretato dalla visione di Carlo Urbinati, che richiede una riflessione profonda sui nuovi rapporti di equilibrio che via via vanno formandosi in seno alla società. Le regole finora applicate non sono più sufficienti a dare risposta ai nuovi clienti. Cambiano i bisogni, i ruoli e di conseguenza i comportamenti. Ecco quindi che le figure imprenditoriali di valore sono spinte a rivedere in chiave evolutiva il proprio pensiero per consolidare la propria leadership. Il percorso di cambiamento a più livelli intrapreso da Foscarini vuole dare prima di tutto all'azienda stessa risposte in un contesto in continuo divenire, raccogliendo la sfida e facendola propria. Bentornati, siamo ancora insieme su Radio Next, sono Pepe Moder e abbiamo un ospite qui con noi, un ospite illustre importante per la sua esperienza prima di tutto imprenditoriale. Oggi abbiamo Carlo Urbinati che è il presidente nonché l'imprenditore che ha dato vita al mondo di Foscarini. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Allora raccontaci velocemente un pochino di te, chi è Foscarini oggi? Foscarini oggi è un'azienda italiana che si occupa di design nel mondo dell'illuminazione, facendo riferimento al design italiano. Perfetto. Quanto è complesso oggi, Carlo, fare impresa in tutto quello che sta cambiando con il contesto competitivo digitale? Direi che è molto complesso perché le realtà vanno molto veloci e cambiano con una frequenza che non è quella a cui ci poteva essere abituati prima, e non sempre ci sono delle stelle polari abbastanza chiare, per cui si rischia anche di sbagliare strada e scoprirlo quando... Che opinione hai in generale dei manager aziendali di fronte al cambiamento digitale, esclusi ovviamente quelli della tua azienda? Beh, i manager per certi aspetti sono perfettamente aderenti a quello che stavamo dicendo adesso e per certi altri sono ancora peggiori, perché... Dammi qualche dettaglio in più. Loro non hanno solo l'area di comfort da difendere, hanno anche qualche cosa di più sul piatto, per cui probabilmente io credo che sia più facile trovare qualcuno che frena nella middle class delle aziende piuttosto che non nelle altre aree. Quindi ci stiamo dicendo meglio non fare e non sbagliare piuttosto che fare, rischiare e poi rimetterci il posto di lavoro. Ma il posto di lavoro forse un manager non lo sente tanto a rischio, perde le possibilità di incidere nella vita della propria azienda e questo non è facile da accettare. Sistema paese a parte, il digitale può davvero aiutare il tessuto imprenditoriale italiano a riemergere a livello internazionale? Qui secondo me la mia visione è che stiamo vivendo certo. In un momento eccezionale. Sembra strano da dire, ma a livello generale questi cambiamenti che stiamo cominciando a vedere stanno rimettendo il singolo al centro di tutto il mondo, forse molto più di quanto non sia successo a livello più filosofico qualche centinaio d'anni fa. Chiarito come penso che si possano leggere le cose che viviamo, penso che in Italia noi abbiamo delle possibilità enormi, perché per fortuna abbiamo tante cose da fare e da dire. E il rischio che queste enormi potenzialità, lo avevamo citato prima, vengano, come dire, acquistate dall'estero perché abbiamo delle piccole eccellenze meravigliose che però in realtà potrebbero fare fatica a competere sui mercati internazionali e fanno invece gola a quelli che stanno diventando dei grandi giganti, magari che vengono dal mondo del digitale, non necessariamente aziende tradizionali, le quali invece vogliono diversificare. Il timore del diventare una succursale di mercati finanziari esteri che vengono a fare shopping in Italia, quanto è reale secondo te? Ci sono tutti e due gli aspetti che hai citato. Da una parte c'è in prospettiva, e forse neanche tanto lontana, una questione di massa critica, sì, delle aziende. Noi siamo italiani, siamo individualisti e ne paghiamo in innumerevoli maniere le conseguenze, un costo piuttosto elevato. Ci sono anche dei lati positivi. L'individualismo fa sì che ognuno, mentre si fa gli affari suoi, probabilmente è spinto a diventare molto più bravo di altri che probabilmente non hanno questa spinta. E quindi, finché le aziende saranno piccole ma cattive, come in Italia, piccole vuol dire aziende in cui convive sia l'aspetto artigiano che l'aspetto di ricerca che l'aspetto tecnologico, eppure piccolissime aziende, probabilmente ci sarà spazio per fare tante cose interessanti. Quello che succede poi quando qualche gruppo finanziario e magari anche straniero viene a fare shopping da noi può determinare dei cambiamenti, ma se i prodotti nascono grazie o appoggiati alle piccole aziende che dicevo prima, probabilmente saranno cambiamenti non a livello delle cose che noi vediamo succedere, sì, oggi. In questa profonda trasformazione di cui abbiamo parlato, le agenzie digitali, i consulenti, stanno davvero aiutando? Nella tua esperienza, sei riuscito a trovare qualcuno che ti abbia veramente, come dire, aiutato o che ti abbia dato degli spunti veri che ti possano permettere di pensare? O in generale c'è secondo te un deficit di comprensione del business, di comprensione dell'azienda, di comprensione degli obiettivi dell'azienda, e quindi il digitale rimane sempre ancora una roba un po' staccata da quello che è il mondo aziendale? E questo è il centro, secondo me. Infatti consulenze o apporti esterni devono essere considerati, secondo me, con tutto rispetto, ma uno strumento. Quindi non devono diventare, non gli si danno le chiavi dell'azienda o non gli si deve dare un'importanza non sottoposta alla capacità critica della propria azienda. Quindi mi stai dicendo che si deve portare dentro almeno delle competenze per aiutare a capire che cosa sta accadendo e quindi quali sono le direzioni da prendere? Probabilmente deve anche portarsele dentro, ma l'importante è che siano filtrate da chi è portatore dei valori di fondo dell'azienda. Il DNA deve trovare il modo di esprimersi in una maniera diversa, ma questo non vuol dire che si deve mettere il DNA in mano a qualcuno e poi dire vai. No, certo. Mi riferivo quindi al fatto di dare l'opportunità ai propri dipendenti di acquisire un nuovo livello di conoscenza per essere loro, quindi i driver o i partecipanti a questa trasformazione, a questo cambiamento. Esatto. Un'ultima domanda, Carlo, prima di salutarci. Dovessi immaginare un'azione di Foscarini sul digitale da qui a 5 anni, che impattasse radicalmente il modo di lavorare dell'azienda, in quale area la auspicheresti? Beh, io che vengo da un mondo, noi siamo un mondo di creatività, penso che si potrebbe fare moltissimo nel mondo della creatività. Ringrazio ancora Carlo Urbinati, presidente e imprenditore di Foscarini. È il momento di salutarci e ringraziamo quindi anche tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi. Tutti gli argomenti trattati su Radio Next sono approfonditi sul sito della Business School del Sole 24 Ore e per qualsiasi provocazione, idea o consiglio vi ricordo il nostro indirizzo di posta radionext@radio24.it. Ringrazio anche in assistenza Chiara Ferré e in regia Roberta Frisani. Noi ci sentiamo in podcast nella versione estesa o la prossima settimana con una nuova puntata di Radio Next. Un saluto da Pepe Modena.